sabato, domenica, qua non c'è altre ferie, roba la stagione di Ferragosto, preferibile 14-15 di turno, mi sono buttato come, mi sono buttato a guadagnare denaro. lo sento 1, 2, 3 a Domenico, poi sale a 9, a 8, torna a scendere. Completamente muto, guarda, non c'ho un filo di QRM. Positivo, positivo. Ma è nell'aria, è nell'aria. Sì, infatti Domenico, si conferma. Si conferma. Parecchio, ne sento parecchio. Può essere, perché gli altri, tutte le altre radio qua massimo segnali uno di QRM, uno, due massimo, però passa molto bene Domenico. Avanti Domenico. Sul tetto, capito? In pratica c'è un tetto tutto rivestito in alluminio e quindi fa da schermatura. QRM rispetto agli altri è molto molto più basso il mio, non è molto alto per me, capito? Avanti Falche. Eh sì, adesso questo passaggio l'ho sentito a bomba, adesso non so se tu mi ascolti bene. Se non mi ascolti adesso dove? Per dare due colpi con l'amplificatore, ma Non c'è più propagazione 45, non c'è più niente. Ma la mattina casino c'è, cioè c'è propagazione oppure tutto silenzio lui. Forse sono in piedi ancora, anche no, c'è un movimento in strada adesso, non ci sono a fare tutti, ma a Bibaccaglia abbiamo fatto un qualche nonia, non c'è movimento, non c'è ancora in piedi, e non c'è nessuno a fare tutto, veramente tutto punto a Caglia, come ho proprio raramente tutti qualche cantina così, ma non c'è nessuno. Sono transistor, sì, ma formulare d'altro e a 4 finale di attenzione. E a 4 finale, perché io se non lo figlio per il trasporto siamo a 4 finale, non si altro è la 4. Ehi, Luigi, lo conosco, non c'è problema, ma 2001 è un'altra Cuba. C'ha 5 valvole, hai capito? C'ha 5 valvole da 150 watt l'uno. L'una, lui chiaro, quando è chiaro da 150 watt la valvola, è un mostro, un mostro. Poi c'ha 5-6 potenze di erogazione, 6 potenze, con la quale tu puoi giocare, per una volta che l'hai d'accordo, se sul canale 45 non ne vuoi dare tutti 700 watt, te lo porti a 300, a 400, anche a 150 watt lo puoi portare con la prima potenza. È bellissimo, l'ho provato io e ti dico che mi sono ricreduto che la ZG abbia potuto fare un amplificatore veramente così forte, capito? Io c'ho quello grande HF che ha due valvole grosse, ma grosse quante una bottiglia di birra, e se ti fidi a Giumai la dinamatessi potenza, perché quello là in HF con 100 watt di pilotaggio, perché quello ha 100 watt di ingresso, questo di watt di ingresso ne ha 10, cioè ne ha 10 e 15, mentre quello là ne ha 100, arriva a 700 watt modulati, però è un amplificatore HF, cioè le valvole di quell'amplificatore costano 200 euro l'una, quindi costano 35 euro l'uno, quindi... Quello a 4 valvole, a 4 finali, e a quello pompa un pezzo, capito? Quello si pompa già quello della ZG a 4 finali, pompa un pezzo, perché non le dai solo le 700 watt, un impulso di 700 watt di tasso, quello a 3 minuti, tu la sia valvole con 5 valvole. Un mostro è lui, tu ce l'avevo un mostro veramente. Ha una potenza indescrivibile, c'ha due ventole, una appena lo accendi che raffredda subito lo stadio finale, l'altra quando schiacci la portante entra in funzione molto più veloce, tira fuori un'aria proprio a un dissipatore allucinante, veramente molto bello, costa una barca di soldi, 600 euro costa. L'ho vista, e vabbè io qua c'ho il posto, o lui, c'ho il posto, adesso poi appena capino mi dà, te lo ritiro io quel microfono, lo provo, poi vieni qua e te lo prendi, perché se non vieni qua prendo, non tengo io qua, fino a quando non vieni qua, capito? L'altra volta eri in fretta e ti ho perdonato, poi io ai 4 mi sono dimenticato che non c'ero, quindi fortunatamente abbiamo fatto quel problema, insomma abbiamo risolto così. Infatti Gavino c'è anche una radio mia, ma devo telefonare per vedere che punto è, e quindi già mi arrangio io con quel microfono, per le connessioni, per tutto già mi arrangio io, e poi vieni qua e te lo faccio vedere. È una bestia, ma non sai quanto è pesante, guarda, io penso che pesi almeno 25-26 kg quell'amplificatore, ma mano grande, bello esteticamente, c'è uno strumento bellissimo con due scale, tutto illuminato, molto bello veramente, e che costa un barca di soldi. Ecco. Scusate, ma Luigi ti sento molto basso, se mi hai chiamato per avanti il break, o meglio avanti il break, non ti ho sentito. Ben sentiti, me l'ascoltate a questa parte di Grode. Ciao Arturo, purtroppo sono sorgendo anche adesso. No, quindi te lo posso aumentare, che cazzo è un affuzzito, te lo posso aumentare, sono le 9, te lo posso aumentare Arturo. No, adesso ti sento bene, ti sento più che bene. Oh Claudio, ma spazio ne hai a casa? No, basta, non ho più spazio. Perché? Perché c'avevo una lavatrice vecchia, se me la tenevi custodita. Non ti dico dove mettertela perché sono diventato educato, capito? Sapi che sono tutta la sera che lavoro sul tuo microfono. Quindi io il mio dovere l'ho fatto, cosa che non hai fatto tu, che dici non so cosa dovevi fare stasera, passare qui e passare là. Ti ringrazio di questo, fra l'altro ho saputo che hai fatto miracoli e non mi potevo aspettare di meno da te. Se sai poi bene come ti vanto, ormai ti chiamiamo Mr. Kingwood, quindi. Biglia. Era proprio messo bene quel microfono, per carità di Dio. No, ho fatto le prove stasera e in pratica la modulazione è uguale al mio, ha delle tonalità un pochino, ma proprio un pelino diverse, ma con la mia modulazione è talmente minima la cosa, qua c'è Luigi, mi ha sentito che per me va ottimamente bene. La basettina l'ho saldata dall'interno e adesso è una tratta sino a quando non asciuga all'interno, si lascia così, comunque il piantone è perfettamente funzionante, ne ho tolto con l'adesivo, l'ho tutto lavato con la crinina, finalmente ha preso un po' di colore ed è perfetto, diciamo, quasi perfetto, vai, quasi perfetto, ma comunque abbastanza presentabile. A te Luigi. È positivo, dai, io l'ho ascoltato, ero lì a muro che l'ho ascoltato e niente, il microfono era normale come quelli che adopera lui dalla radio, anche la tipica sua che l'ho detto stasera, non c'è stata la tipica sua, c'è il microfono, poi bisogna vedere come va con te. Con lui va una meraviglia, è sempre lui, quella voce sua, quella tipica sua, quella modulazione sua con quel microfono lì, capito? È la sua, però ho visto che lui fa miracoli anche come io stesso parlo con microfono normale, a volte mi fa una voce. Notato l'altro giorno parlando con microfono normale, con CTE, stava parlando con CTE, un microfono da 12 euro e sembrava che avesse chissà che cosa di microfono, ma invece aveva un microfono da 12 euro di quelli neri che usa gente. Ma ti ripeto, non scherzo quando dico che non avevo dubbi. Il bello della voce di Claudio è che è molto baritonale, nel senso che è molto di petto. Questo fa sì, questo è anche perché fuma, questo fa sì che i microfoni di oggi, che prendono soprattutto gli acuti, riescono a miscelare bene la voce e a fargli uscire quella potenza lì. Se lui avesse avuto la voce acuta non sarebbe stato così, perché con i microfoni di oggi non tendono a non prendere i bassi. No, è giusto, confermo, quello è vero, ma quello l'ho detto sempre io. Io l'ho notato perché l'altro giorno lui stava parlando con CTE, stava modulando con CTE, che forse gliel'ho dato pure io con CTE, che c'è la mia firma, c'è la L con la V, Luigi Vulcano, è proprio mio, quello è mio. Il mio che l'ho dato insieme col baracchino, in dotazione col baracchino, perché altri quelli sono usciti, quei microfoni sono usciti proprio con quelli, sono abbinati a quegli apparati lì. E niente, pure col microfono normale, con una radio normale, lui esce con una modulazione bella, piena e sembra amplificata, eppure amplificazione non ce n'era. Ma ho sentito un break, è registrato, ma la moletta sei riuscita a salvarla? La moletta del piantone, sì, l'ho fatto un rivestimento interno, l'ho prima accoppiato, tenuto fermo con la colla, caldo dall'interno, però non all'esterno, all'esterno non si vede niente, l'ho addirittura anche passato il pennellino nero, quindi manco la giuntura si vede. E poi una volta che è tenuta ferma, gli ho fatto una fascia di plastica sempre all'interno, sellata, in modo che sia rinforzato e non si stacchi, solo il tutto per essere bello compatto, ad te lo faccio sentire. Avanti break, buonasera. Ciao Claudio, sono qui. Ascolta Claudio, c'è un controllo di gare così, adesso mi ho questo, ho comprato da poco, adesso ci sta andando bene. Questo mio si è ancora abbassato. Sì, Gianpaccio, buonasera, ben ascoltato. Per me va benissimo, la tua modulazione è dei vecchi tempi. Questa è la tua timbrica che io sono abituato a sentirti, ottima radio, ottimo segnale qua su Santiago 9, senza nessun problema. Ti passo Antonio Grotte, vediamo se ti ha ascoltato bene anche lui. Per me va benissimo, Gianpa, io ti do Radio 5, bella amplificata, bella forte. Vai Antonio, ti accomodo la radio. Allora Gianpa, confermo quello che ha detto Claudio, io stamattina ti ho sentito e non avevi la stessa modulazione, non stavi uscendo così. Adesso ti ha esaltato una cosa che ti mancava stamattina, che sono gli acuti, e la modulazione è perfetta, perfetta. Stai rilevando con un Santiago di 7-8 e una radio di 4, ma esclusivamente perché ti stai tirando dietro un po' di QRM. Per il resto sta uscendo benissimo, è una questione esclusivamente di potenza il fatto che non ti dia 5. C'era anche in ruota Vulcano, non so se vuoi incontrarlo anche da lui, te lo rilancio. Ci sentiamo comunque alle prossime. Avanti Vulcano. Positivo. Ciao Gianfà, no, già va bene. Comunque se non ti piace Gianfà, buttalo dalla finestra, tanto faccio un salto io, mi costa poco scendere, buttalo dalla finestra già passo io. Ciao Gianfà, ciao, fai buona carica. Oh ragazzoni, io mi sa che anch'io do due girate di forchetta pure io e pare che mi aspetti pure a me i pitucchi. Pitucchi no, diciamo che te lo concede sicuramente tua moglie. Cosa ti ha cucinato? Non è che mi sta cucinando tanto, mi sta mettendo la dieta forse, ma adesso se ne vuoi te ne cucini, io ti smetto a dire se è troppo grasso adesso. Un po' di carico sporgente ce l'hai, guarda, l'ultima volta che ti ho visto eri un po' così. Sì, prima era, non ne avevo nulla a faccia, prima di entrare, in giugno ero quasi piatto, poi a luglio ho iniziato a uscire la faccia, chissà perché, mi sto pesantendo, non lo so come mai, non lo so dai, è tutto colpa di Claudio, non è colpa mia, la colpa è di Claudio, perché a volte passava il sabato o la domenica che fosse, se non mi ricordo, ma passata di largo, ed ecco cosa è successo, con due bicchieri di vino, una passata di largo, affettato, ecco cosa è successo. No, ma quella lì è la pancia mascola di chi beve Dräger, capito? Importante poi che non venga la malattia del vitello. No, Dräger ne bevo poco e nulla io. Birra ne bevo poco, quando mi fuso mi poca giuccia il vino, mi vino già ne giuccio. No, birra già, no, birra è poca cosa, bevo di birra. Vino ne bevo di più, birra di meno. Ma tu la sai qual è la malattia del vitello, sì? Io conosco quella dell'agnello, invece la faccia si ritira l'uccello. Esatto, quella lì era. Avanti, ma stai andando a fare carica oggi? Sì, positivo, e beh, se no poi mi fate la pizzica. Però già dai, buona carica, buon tutto, ci sentiamo dopo se coincide. Avanti Claudio. Ok, ciao lui, ci sentiamo dopo là se coincide. Allora, questo qua è il mio microfono. Oh, Antonio, adesso ti attacco il tuo, e stavo già spaventando. Dare i passaggi e poi vado a fare a cenare. Stavo spaventando, se fosse stato questo, vieni avanti, dai, vediamo. Non ti spaventare che non è che cambi molto, questo è il tuo. avanti, cambio, prendi, riprendi Gigi, ma complimenti davvero. Asso, però non ti aspettare che quando ci muovono le tue ci stessi così, questo sta un po' se non puoi scomodare, cioè, c'è una bella modulazione, però non sentirai quello, vedi, il discorso è questo, con Claudio, vedi come esce quella radio, però Claudio, vorrei ascoltare nuovamente l'altro, il tuo, così, una curiosità, perché ti avevo il volume basso, se puoi fare un attimino la prova a mettere nuovamente l'altro, il primo che hai messo, fallo questo passaggio e poi te ne vado a cenare. Sì, purtroppo, siccome non mi ha dato il cavetto lui, quindi sto staccando il mio cavetto inserendo questo il microfono di Antonio. Ripeto, questa è una capsula dinamica, mentre la mia è in ceramica porcellanata, quindi l'originale. Questa non è originale, però è della ICOM. Ok? Allora, questo è il microfono di Antonio, stacco e connetto con l'altro. E comunque, per imitare un po' quella che è la sua modulazione, basta parlare con i toni bassi, vedi, Gigi? Parli così e un attimino gli assomiglio anche. Giusto. Questo invece è il mio microfono, questa è la capsula originale dell'MC60, cosa cambia Luigi? Niente cambia, Claudio. Ebbene, non è molto simile l'altra, Claudio. L'altra è molto simile, se ti fidi è più forte l'altra, è più squillante leggermente di radio, sempre bella grossa, diciamo, la modulazione, ma la sento leggermente più spinta di radio quell'altra là. Non so se io, perché l'ho lasciato il volume allo stesso punto come l'ho lasciato prima con l'altro. L'altra lo sento molto più spinto di radio, non so come mai, però è bello, questo è ottimo essere quello tuo. Però anche l'altro è molto simile, però si sente leggermente più spinto di radio, lo sai, tra. Io ti posso dire una cosa, invece io ho notato il contrario, nel senso che questo che è il tuo lo sento spinto e grintoso, l'altro è lo stesso bello, ma proprio se andiamo a guardare il pelo nell'uomo sei leggermente più ovattato nell'altro, ma leggermente. E lì il problema, dovete stare attento a quello. Allora, ricambio di nuovo, questo è l'MC60 originale con capsula Kenwood porcellanata. Adesso metto l'altro microfono con capsula non originale, però una capsula dinamica della ICOM dell'SM8. Ok, stacco. Sì, sì, fai così. Sai cos'è, Anto? Essendo troppo vicino non te ne accorgi, in lontananza, come siamo noi, siamo una decina, 10-15 km, se no quasi 20 pure, se no, hai capito, se no fa la differenza, Anto. Vicino no, ma se sei in lontananza lo annunzi, capito? Essendo una ventina di chilometri, la annunzi la differenza. Kappa. Adesso inizi a parlare come Claudio Sparviero, lo senti? Che inizi a parlare così, un attimino con la voce bassa, grave. Avanti Claudio. E ancora, secondo me tu devi mangiare molto pane e formaggio, se ti piace, altrimenti mangia pane e salsiccia. Questo è il tuo microfono. Io, per poter avere una modulazione del genere, stabile, io ho una misura che sembra ci sia davanti a me un muro, capito? Praticamente io ogni volta che parlo la mia misura dal microfono è 35 cm, questa è la misura standard che io uso e la modulazione è praticamente la mia voce, il parlato al naturale di quando sto parlando di persona, uguale, preciso, identico, senza dare no. Il 60 è una cosa, è come la donna, capito? Devi stare attento dove la tocchi perché le puoi far male. Non è come l'uomo che lo puoi prendere a calci nel culo. L'M60 è una donna, la devi solo accarezzare e volerle molto molto bene. Non devi mai esprimerti in maniera scurrile perché altrimenti poi ti fa strappare, ti fa avere una modulazione brutta, capito? Le devi voler bene l'M60, io le voglio bene, vedi? Ha parlato, signori e signori, ha parlato Claudio Sparviero. Certo è che per avere la sua modulazione io mangio di buono un sanghiglio, perché la voce così ha contribuito anche un po' il sigarro. Avanti Gigi. Sì, comunque Claudio, ti dico una cosa, questo è ultimo, è molto simile all'altro, guarda, se tu pigli uno, giglielo, ti sparo, scusate, che stai tranquillo che uno ti dice, ma forse è il tuo, no, forse è quello là, adesso perché tu l'hai detto, se no non ne capisci un tubo, sono, va bene e quasi simile all'altro, Claudio, va benissimo, è azzeccato, è pieno, quella capsula l'hai azzeccata, è pieno, va bene, con questo vado a cenare, dai, che riprendo dopo, proseguite, va benissimo qua, bene, bene, ti dico bene. Ok, infatti non ho detto niente, stasera ho fatto le prove con Fabrizio e siamo riusciti ad avere questa tonalità talmente buona che alla fin fine mi ha convinto anche a me, perché mi ascoltavo in cuffie e percepivo un minimo proprio molto basso di cambiamento. Ok Luigi, dai, ti saluto, allora un abbraccio, se coincide ci sentiamo dopo, quindi facciamo una prova con la LAN 48 e via. Guarda, io ho questa voce, allora quando ho iniziato a fumare avevo 14 anni, ne ho 51, non ho mai avuto nessun problema né alle corde vocali né, grazie a Dio, ai polmoni e né niente, quindi la mia modulazione è questa, le mie tonalità sono queste e secondo me non ha inciso assolutamente niente, perché io ho un amico che ne fuma 3 di pacchetti al giorno rispetto a me che ne fumo 1, eppure la modulazione sua è sempre bella, chiara e pulita, capito? Ah, ecco la ventolina che si è attaccata, mi sono lubrificato la ventola stasera e via. Va bene, comunque questo è il tuo microfono, adesso io lo tengo qua in autocontrollo e poi si vedrà. Per il momento il tuo microfono sta funzionando perfettamente. Io ti ringrazio, e comunque la conferma che hai iniziato a fumare a 14 anni non è che ti ha... fumare molto spesso ingrossa le corde vocali, ingrossando le corde vocali c'hai i gravi molto pronunciati, capito? È quello che si intende, poi ci sono anche le persone che... è difficile che tu trovi fumatori accaniti che hanno una voce molto fine, molto difficile. Quello sì. Non ho detto mamma di fare il cantante lirico, solo che invece di fare il cantante lirico ho fatto altre cose, capito? Tutto qua. No, beh, scherzo, comunque. No, dai, va bene. Diciamo che secondo me, se riesci, oppure me ne occupo io, perché... Sì, va bene, col piantone lì, me ne occupo io, comunque non ti preoccupare. Vedo un po' di metterlo nuovo, quel piantone piccolino. C'è anche quello della, sto volando quello della Iesu, che è simile. Posso anche chiamare la Iesu e farmelo mandare, perché la Kenwood purtroppo ha fallito, non li fa più. Capito? Comunque, il piantone è perfettamente funzionante, il microfono è al suo posto. Va benissimo, per me va bene, non ci stanno problemi, ottimo per la truppa. Scarpa Roger, ti chiamerò Lazzaro, dai, che è risuscitato un morto, perché era molto quel microfono. Poi tu pensi che tutto quello scotch, quell'immurico, quelle cose le abbiamo messe io come è arrivato te l'ho presentato, perché l'ho visto, ho capito che non potevo fare niente, ho provato a cambiare quella capsula, infatti quella capsula che hai trovato è di un microfono cinese. E dopodiché però te l'ho portato in tonso come me l'hanno dato. L'unica cosa, avevo aperto la parte di sotto e me ero reso conto che secondo me è stato quasi in acqua, comunque in una zona molto umida. Sì, ho tutto, infatti inizialmente quando l'ho provato fischiava, faceva, allora ho detto bobo, ferma tutto, l'ho tutto fatto a pezzi, ho staccato completamente la piastra di sotto, quindi non solo il piantone, mentre stavo asciugando il mollettone, ho staccato completamente tutta la piastra di alimentazione, di preamplificazione, ho tutto lavato con la tridina, l'ho tutto soffiato, e poi spinetta per spinetta, tutte messe dentro. quando hai mollato il portacapsula, praticamente la retina, se tu hai visto è vuota, quella non deve essere vuota, quella c'è una custodia retinata leggermente più grossa che permette alla modulazione di non essere espansa, praticamente di non disperdere, ok? Quindi quando tu ci parli davanti al microfono la modulazione va dritta sulla capsula, mentre lì mi accorgevo che si arriva un po' la modulazione in cuffie rispetto al mio. Allora gli ho fatto un rivestimento di carta stagnola, è settata proprio dentro la sede della capsula, in modo che quando tu ci parli sopra la capsula, non vada a disperdere la modulazione, non vada ad allargarsi. E poi ho chiuso tutto con la sua retina, quindi non si vede assolutamente niente, poi l'ho cuffiata, come si dice. In pratica ti ho messo la cuffia, quella che uso io, antisoffio, sull'MC60. Ne avevo un'altra e quindi... E la modulazione quindi rimane bella compatta, bella chiusa, senza nessuna... non disperde praticamente. Qual è quella che stai usando adesso? Sì, sto usando sempre il tuo microfono, ti ripeto, con la cuffia antisoffio, ok? Quindi nel microfono c'è la cuffia antisoffio, come i microfoni miei, perché fa sì che la modulazione non disperda e soprattutto non si senta il cambio dell'areno, capito? Pappa Roger, aspetta un attimino... Ti stavo dicendo, ma lo stai provando col 140 o col 440? No, lo sto provando col 430 perché siccome ho fatto anche un lavoro al 430 di pulizia eccetera, di ventolina e ballevare che era un po' rumorosa, e quindi per provarlo lo sto provando col 430, ma non cambia niente, l'ho provato col 140 stasera senza che neanche Fabrizio se ne accorgesse. Col 4,40 e col 4,30, ok, sul C80 non c'è antenna, ma comunque no, non ne vale neanche la pena, perché provandolo col 140, 4,30 e 4,40 la modulazione non cambia nel modo più assoluto, rimane sempre questa, ok? KK, no, ti volevo chiedere se avevi in qualche modo modificato la posizione dello slide della radio. Lo slider, quello, sì, deve rimanere su a 500 kg, ma adesso lavora questo microfono, con quella capsula che sta usando adesso, mentre l'altra capsula che tu avevi messo lavorava a 700 kg, allora per far sì, siccome quello slider che tu hai visto sopra, quel commutatorino, chiamiamolo così, quello è un adattatore impedenza che è collegato, se tu sei stato attento, sotto al piantone, c'è è un adattatore impedenza praticamente, dove arrivano due fili, uno giallo e uno blu, che praticamente lì non c'erano perché erano tagliati all'interno, e arrivano a quel commutatore. Quello fa sì che cambia da 50 kg a 500 kg, però tu mettendolo a 500 kg, avendo la capsula da 700 kg, l'adattatore impedenza non entrava in funzione. Ok? Allora io ho fatto sì che, siccome la capsula della ICOM è a 500 kg, ricollegando tutto, muovendo l'adattatore impedenza, mi sono accorto che cambia, perché vedi, guarda, aspetta che accendo la luce, mi sono allontanato, mi sono avvicinato, allora così sta lavorando a 500 kg, ok? Così invece sta lavorando a 50 kg, la senti la differenza adesso? KK, ma è la stessa differenza che c'è ad esempio fra così e così, guarda un po' se è cambiato. Esatto, deve avere la stessa differenza adesso, perché la capsula lavora a 500 kg, quindi l'adattatore impedenza ti passa da 500 a 50. Allora rimettiamo com'era. Aspetta, porca la paletta. Beh, eccolo qua, non c'ho unghie, quindi mi veniva un po' male. Eccolo qua, e anche quello deve lavorare a 500 kg. Tutti gli MC60 devono lavorare a 500 kg. Ma quindi questo va bene così o andava meglio prima? No, lo devi lasciare a 500 kg, il tastino deve quindi 50 km la parte di su. La parte di sotto è invece 500. Perdonami, hai ragione, sì. Siccome ero senza occhiali, ho preso fischi per fiaschi, sì. Allora, 50 km sopra e 500 sotto. I 500 km si usano con questi microfoni in banda laterale. KK. Quello che ti volevo chiedere io però, lo slide dell'apparato, del mic gain dell'apparato, lo lasci tu da tutta canna, tutto massimo? Sì, sì, è tutta manetta col 140, no, col mio 140 no, col mio 140 ce l'avevo sotto la C, ce l'ho sotto la C, ok? Sotto la C, guarda, adesso per farti così stai più tranquillo e sereno, adesso io stacco il connettore qua dal 480 e lo attacco al 140, ok? KK, no, ma io tranquillo lo sono, figurati, ti ho dato un morto, ne hai fatto un microfono. Ci puoi contare? Ecco qua, questo è il 140, ok? Non è cambiato niente. Niente, niente. Allora, così è sotto la... senza occhiali, maledetto, eccolo qua. Sotto la I, ci siamo? Così è sotto la I, così è sotto la C. Ha aumentato qualcosa? Decisamente sì. Adesso è proprio uguale a quella di prima. Mettilo a tutta canna, metti al massimo. Così è al massimo. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50. No, secondo me va bene così, eh. Va bene così, non è troppo alto, no? Da fastidio, scusa un attimo, da fastidio il rumore della ventola che si sente dietro. Però per il resto va benissimo. La ventola fa parte del sistema di modulazione, togliamocela la testa, non vanno bene i rumori di alternata, non vanno bene altri rumori, ma quando in una stazione radio si sentono le ventoline vuol dire che le radio stanno funzionando, stanno dissipando, bisogna ci abituiamo a sentire, perché guarda, io questa la sento ma molto molto poco la ventola, che poi non è quella del 140 ma è quella del 430 che è rimasta ancora accesa. Si deve sentire, quindi adesso l'ho rimesso sotto, ecco qua, guarda qua, opala, te l'ho rimesso sotto la I, così è sotto la I, allora attento, sotto la I, sotto la I, aspetta che sto muovendo, sotto la C, e così al massimo, ok? Allora, la potenza massima, si vede che stai aumentando, ottieni più di fondo, ottenendo più di fondo è come se tu allarghi la stanza, cioè si sente la profondità della stanza, nel momento in cui lo metti al massimo, in questo momento si sente quella ventola in un modo pazzesco, capito? Però secondo me la modulazione va ottimamente. Allora, la posizione ideale di questo 240 è questa. Praticamente io lo tengo sempre sotto la I, sotto la I sempre col tuo microfono. Penso che non ci sia nessun problema, penso che qualità prezzo a quello che l'hai pagato, e tenendo conto che devi dare almeno 50 euro a me, il microfono va bene. Infatti adesso, a parte gli scherzi, ma la capsula, una capsula come quella cosa veniva a costare? Non ti rispondo che siamo in radio, ti rispondo quando ci vediamo di persona. Lo sai che ti voglio bene. È che ne ho provato due di capsule, una dell'SM20. Fabrizio mi ha detto ottima, però c'ha troppi acuti, infatti l'SM20 è un microfono che c'ha molti acuti perché lavora in FM. Un microfono che va molto molto bene in FM, anche in banda laterale, però in banda laterale devi tenere il mic gain molto molto basso oppure staccare il processore. Allora ho visto l'altra che era leggermente più larga, l'ho controllata con la lente e c'è la sigla dell'SM8 che è l'altro microfono sempre da ICO. Questa fa volete darmi 5 minuti che la risolvavo e risolvavo quella, ma ha detto boh, non toccare più niente perché quella lì è la sua capsula. Effettivamente è simile a quella che c'era, simile, larga così, tonda, però è molto più piatta. No, ma adesso a parte gli scherzi, non è che ti stavo dicendo che ti devo i soldi, ma ti stavo dicendo una capsula come quelle, cosa viene a costare? Cioè ha un suo costo, quindi il qualità prezzo non è, se poi abbiamo speso in capsula quanto costerebbe ci avviciniamo a quanto costerebbe un MC60, capito? Io non so cosa può costare una capsula microfonica. Sembra che ti voglia fare i conti in tasca. Ti ho detto dal mio microfono che lo volevo riparare, il microfono l'hai dato, te l'ho riparato e ciccia, ok, non ti preoccupare, quando ci vediamo te lo dico quanto costa la tassa, ma non qua in radio. Io quella in pratica l'avevo comprata alla fiera di Milano, perché ti dico il perché, quando avevo l'SM8, l'SM20 l'ho presa di scorta perché ce l'ho l'SM20, hai visto qual è quello nero della Icom, che è simile all'MD100, quel cesso di microfono che non posso vedere manco morto, e praticamente quella l'ho presa di scorta, quella dell'SM20. Quella dell'SM8 invece l'avevo presa perché quando avevo l'SM8 io, che è un signor microfono, aveva il difetto che quando mi avvicinavo era perfetta, la modulazione era una bomba, sto parlando della banda laterale, quando mi allontanavo la modulazione tendeva a calare, e siccome le capsule queste qua in vetro si possono misurare perché c'hanno all'interno una resistenza, sono alimentate praticamente dal microfono stesso, e quindi avevo chiesto qual era l'intensità che poteva avere, me l'avevano data, e l'intensità era a metà, proprio a metà. Quindi in pratica quando io ho comprato il microfono, poi è successo che la capsula difettosa, allora l'avevo presa e non l'avevo mai piazzata. Ti dico anche perché la radio poi l'avevo venduta. Avevo venduto il 735 della ICO con l'SM8, un radioamatore di Sassari che non ho mai sentito sinceramente, né VHF né in UHF né mai da nessuna parte. Grande CB che si chiama Giovanni Mistero. E quindi niente, mi è rimasta la capsula e quindi ce l'abbiamo utilizzata. Qual è il problema? Assolutamente nessuno, ho stato utilizzato ottenendo ottimi risultati, capito? Perché quello lì lo puoi tranquillamente spacciare per un MC60 original, assolutamente. Ma infatti io ti dico questo, proprio per questo motivo, e capisci perché, per una questione di responsabilità nei confronti di quello che sto usando adesso, appena ci vediamo rifacciamo il cambio, ma soprattutto anche perché... Perché essendo tu un'estetta, una cosa è avere un microfono col coso rotto, una cosa rotto che poi è riparata, adesso vabbè mi ha detto che ci hai messo la colla, una cosa invece è avere questo che è intonso, siccome sento la responsabilità di doverlo ottenere qua, rifacciamo un change de dame. Non ti rispondo neanche in merito a questo, ti ho detto che questo microfono rimane qua perché voglio usarlo e voglio vedere come si comporta, punto. La responsabilità è reciproca tra me e te, tu sai perché, punto. Non aggiungo altro e cambiamo discorso. Io devo trovare questa basetta e poi quando il microfono è finito del tutto lo prendi e te lo porti via. In ogni caso portami il cavetto invece, che ti metto a posto anche il cavetto, perché il cavetto sto usando il mio, cambio. Ah, ma l'unica cosa, ti ricordo che dal cavetto ne avevo staccato un, adesso vedo se lo ritrovo, un connettore femmina, poi il resto ce l'avevo proprio in mano stasera, quello ti porto anche quello, dai. Ma carica batteria non ne fai? Sto aspettando l'arietta, oggi alle 9:30 ho deciso di cenare con lì, tanto l'ho preparato del pesce e quindi voglio cenare assieme a lei stanotte, perché tutte le volte solo, oggi che c'è 9:30 ho deciso di farle compagnia, sia io che Anna. Tu hai già cenato? No, negativo, sto andando infatti. L'unico motivo per cui non ci siamo visti stasera, o meglio perché non ti ho portato quella cosa stasera, è perché gli ho dato uno sguardo, perché conto sempre le pagine della stampante, se ne avevo mangiato una. Quindi ho dovuto aspettare la signora per far ristampare tutto e finalmente ce l'ho. E, boh, non lo so, o ci sentiamo dopo oppure te lo porto direttamente domani mattina. Capito? Non mi sembrava il caso di portarglielo, di passarglielo al lavoro, perché meglio, meno si vedono certe cose, meglio è. Tanto stiamocene a casa tranquilli e sereni, a meno che non devi uscire per qualsiasi evenienza, no? Non ti preoccupare, c'è anche domani, non credo che tra stanotte e domani cambi qualcosa, quindi possiamo vederci con tutta tranquillità domani, vai tranquillo. Io sono entrato al lavoro e mi sono attaccato subito a fare il tuo microfono e a pulire, a smontare la ventolina del 430 e sistemarla. Poi ho fatto un po' di cambi, L'S80 sopra, 140 sotto perché mi serviva, eccetera, spostamenti e balle varie, quindi praticamente sono tutta la sera qua in radio. Ok, d'accordo, ci siamo chiariti, no? Tu continua ad usare quel microfono e non c'è nessun problema, questo rimane qua per il momento, quando poi sarà il momento decisivo per uno e per l'altro, facciamo quello che dobbiamo fare. Adesso il primo passo l'abbiamo fatto, il microfono funziona, c'è un problemino, ma proprio piccolo, che ho riscontrato proprio facendo le prove con Fabrizio, che è il down e up, che va solo avanti ma non va indietro, quindi domani lo riapro e vedo il perché, se sicuramente al 100% c'è qualche filo invertito sulla commutazione. Quindi per il momento non l'ho ancora finito. La cosa base è che il microfono sta uscendo, che esce abbastanza bene. Ha una capsula della Icom, non ha una capsula né del negro, né del cinese, né di quelli comprati nelle bancarelle fai da te, ha una capsula Icom, quindi il microfono ha tutti gli effetti, un microfono di alta professionalità. Ascolta, cosa che ti volevo dire? Mi hai fatto dimenticare. Cosa ti volevo dire? Ah, ma ti sto dicendo, ma questo rumore di ventola, ventola di che cos'è? È la ventola del 430, o quanto? Il 430 non c'ha la ventola come il 440, che praticamente è all'interno del dissipatore. Questa è esterna. Esterna proprio, è una ventolina applicata esternamente dove si sente parecchio. E l'ho lubrificata perché era molto più rumorosa, però ancora non mi piace. O le stringo le alette delle palette, perché sono regolabili, e faccio sì che dissipi un pochino più stretto, anziché così largo, e quindi non si sente più quel rumore. Oppure faccio un altro lavoro, vediamo. Però è una ventola, è porca miseria, è una ventola, cosa vi dico? Attenzione, questo microfono è molto molto sensibile, più dell'altro, perché ti ripeto, la capsula Icom è una capsula molto molto più aperta, cioè prende molto più rumore, è molto più sensibile rispetto a quella dell'MC60 normale, di quella della Kenwood. Ecco perché io gli ho dovuto costruire all'interno della sede una cuffietta in alluminio, no? Proprio alluminio, in modo che il parlato e i rumori vadano completamente a non disperdere. Ho capito, Caparogi ha registrato il brecco. Capito che no, non piace a me perché la sento, quindi è possibile che stringendogli un attimino le palle dissipi di meno, perché se gli togli la curvatura dissipa di meno, è più veloce e si sente di meno perché fa meno rumore con l'aria, capito? Avanti il break, la buonasera. Beh, Gianni Dinamite, Sì, sei basso di segnale, però quella radio sta passando bene. Non c'è bisogno di chiedermelo così, te l'avrei comunque dato. Stiamo parlando di una Santiago di 5 e di una radio 3. Radio 3 però comprensibile perché non c'è QRM già. Ma dove sei? Cioè sei a casa? Dai, io non lo sento. Tanto è altrettanto, ti dico io. Ok, arrivate l'aria, un abbraccio e ci sentiamo dopo se coincide. Ok, ci sentiamo dopo, va bene? Fappa, buona carica, avanti Gianni. Io ti sto ascoltando, evidentemente qualcun altro no, viene avanti un attimino. Santiago 5 Radio 3 che si sta abbassando adesso perché stai andando sotto QRM. Vai che stai andando bene, ma dove sei, a casa? Già va bene, dai, se ci metti una scarpettina è possibile che arrivi bene. Ma perché, quanto whisky stai mettendo? Arrivando, però è un po' tribola ancora la situazione, metti legna al fuoco perché sennò non stai andando. Capito ti ho, ma perché la radio come sta arrivando? Con un 4? Stavo spazzolando un attimino su un canale, ritorno se sei qua, ci sentiamo dopo se coincide, ok? Ciao. Thank you. queste cose lunghe. Buonasera, che sei l'amico? Ah, io e figlia, ti ho detto, nessuna nuova. Ma che cavolo, niente di niente. A barra Vagovago. Che cosa, non ho capito. Aspetta un attimino. Se no sarebbe stata una fucilata. Sentimi un attimino, ma quell'altra persona invece non ci è andato? Se devo coincidere un po' la cosa, appena c'ho la giornata, cosa ne so, che esca alle 4, la chiamo e vedere un po' se lì è disponibile a ricevermi. Cava di Ruggero, lo avete già mangiato? No, io no. Io sì. Se copio la Spagna. Che apparato è questo qua, Antone? Un amico me l'ha dato, se riusciva a venderlo, e lo usava in un scavatore, ma è nuovo, però è un Intec M400, un semplice apparato in AM, solamente col volume e lo squelce, e poi in dotazione ha questo microfono ZG M95, che è un pochettino un mondezzaio come microfono, secondo me. Ma mettilo in lista, se ha tempo da un po' da aspettare, lo possiamo vendere nel mercatino. E allora glielo dico, va bene. Lui voleva un cinquantino di euro, ma glielo ho detto, guarda che ci aggiungi 10 euro e te lo compri nuovo l'apparato, ho detto. Allora se così dice me lo porta a casa e marcisce lì. Mi sa che già metto marcio e non ha da aspettare molto. Lo so. È semplice, niente di particolare. Come radio com'è? Non è male, è un po'. Hai gravi un po' impazzati, però già va bene, questo PD è ogni tanto suona. Secondo me li avrei aboliti. Ecco, adesso è senza. Abolire allora, andiamo a meglio senza. Basta dirlo. Va bene, vi saluto, ci sentiamo alle prossime, buon divertimento a tutti. Ma dopo rientri? No, non rientro. Perché? Perché non ne ho voglia. Niente, così mi mandi a fare nel cincio come la volta scorsa e dopodiché te ne vai. Quale cincio stai dicendo? Fancinciomi. Non mi risulta questo, quando l'ho fatto? Ma bravo. No, dimmi, quando è che ho fatto questo cencio? Me lo ricordo anche io. E in quale occasione? 2-3 giorni fa. No, mi dico 3 giorni fa. Non ti preoccupare, già li sto mettendo in lista. Quando è finita la cartolina poi ti do il regalo. Quale regalo? Uno grande che te ne sto preparando, grande. No, non posso, Antò, mi dispiace come ricevuto. Vabbè, dai, allora te lo conservo. Eia. Anzi, fa una cosa, lascia stare, dai, cerca di... Si riesce a darla a qualche d'un altro. Adesso ci provo, dai. Eia. Comunque rientra dopo se ci si vede. Ecco qua, ci sono, ma nel caso ci sentiremo, va, buon divertimento. Capo di Roggio, a dopo, ciao. Buonanotte. Aspetta un attimino che sto sentendo uno sotto. Avanti il brecco. Gianni, se sei tu, guarda, non stai uscendo, stai uscendo Santiago 0, Radio 0, 0, mezzo. No, troppo casino, c'è. Prima l'hai mangiato? Sì, a voi, anche troppo. Che cosa hai mangiato? Qui ho mangiato un po' di tutto, Un po' di tutto è troppo. Vabbè dai, se sei in ascolto, sto andando a fare carica un attimino, faccio una spazzolata di FM, voglio sentire una cosa e dopodiché ci sentiamo dopo, dai. Vabbè, ci sentiamo dopo, vedete, sono qua in ascolto, sono qui che fammi di ricordarti quello che ti ho detto. Ma per domani? Se è disponibile, se no magari lo proviamo da te uguale. No, ma figurati, credo che non ci siano problemi, comunque dopo ne parliamo e non c'è problema. Ok, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ok, ciao. Thank you. parcheggiato da una parte. Ti ascolto lo stesso, ma non come ti ascoltavo prima però. Ma che Santiago sei alto, guarda, sì, Santiago di sì, ma la radio non ce l'è. E c'è un innesto sotto, un fischio c'hai sotto, mi capito già. E sono senza fischio, capito? Però non ti ascolto lo stesso, non ci sono problemi. Sì, adesso l'ho eliminato. E questo adesso è chiaro, passo ma chiaro, prima è fischiato, adesso non fischia più. Prima che andavi a fare. Attenzione Claudio Spalliero, ci stai Claudio Spalliero? Oh, hai aumentato la fisarmonica, capisci? Adesso arrivi meglio, dai. Questa è più positiva. Grazie. ti sto dicendo io, allora già eri quelli lì. Passo, sì, 48 lo conosco bene, vediamo se c'ha anche canale sopra, c'ha quello lì, certamente c'ha. Ho capito, dai, prova a sollevare, davanti c'è il primo, secondo, terzo e quarto tastino, giusto? Davanti, o il PA e via dicendo. Tu prova a sollevare il primo, cosa succede? Vai, solleva il primo e poi torna indietro. Prova a sollevare il primo. Il primo tasto vicino al canale 10. Sollevalo. Se il refrigerio c'è tutta a destra, Va bene, e non ce n'è allora, perché a volte lo mettono nel fichile, ecco. Giancarlo lo metteva nel Mickey Gay, che è sbagliato, secondo me, l'Ecco lo metteva nel Mickey Gay. Il Mickey Gay mi ha detto che gira tutto quanto a destra, e allora Ecco non ce n'è, capito? Capito, no, che c'è? Pompulio, tu sì? No, è lavorato a quella. Capito? Allora, non ho capito. È lavorato a quello che ti ha detto qualcosa, o io c'ho tutti i bimbi. Che parroccia fa? Non lo sto ridendo perché non ne capisco un tubo questo. Stai facendo domande a uno che non capisce proprio niente, ti apparecchi. No, siccome ce lo sta sperimentando, lo sta provando e gli stiamo dicendo dove sono le modifiche più o meno, no? E stiamo capendo un po', però lui mi dice lì le cose là, insomma capire, stiamo solamente chiedendo per verificare se c'aveva delle modifiche. Ma non ti segue, il discorso è quello, non ti segue, non conosce l'apparecchio, quindi non ti segue, non te che tu dici il pia è così, qualcosa è colà, non ti capisce, il discorso è quello lì. Positivo, là. Gianni, mi senti la stanza di sì? Non mi senta, mi invito, la sento solamente a te. Positivo, là. Va bene già, non lo so, dai, vieni, no. Se il prezzo è buono, prendilo, se è buono il prezzo. RFG, tu, e me, cosa è RFG stai dicendo? Cosa stai dicendo? Che power letto, di potenza, sì, fatta. Non ce n'è di potenza segnata nel 48, non la 48, lo sta dicendo. Non c'è ma nel pomello o la leggetta sta dicendo? Modificato, glielo nel senso che non è normale, in natura. Comunque, se lo vuole, io torno dopo 2005, se lo vuole, ce l'ho qua, garantito. Non ho capito cosa c'hai, non ho capito che apparato c'hai, ecco, non ho capito, non ho capito il modello. Tornato 2005, non sai quanti ne hai, 161, originali, 50 se lo vuole, se lo porta via gli anni. Ma no, ma il 34 canari o il 40, no, vabbè, 34 canari o il 40? No, più di 40 ne hai a voglia, ce n'è da, da raggiungere, è omologato fuori, dentro no, già lo sai. Ma lo ieri arrivi a 40 e poi ti sposti, vai da laterale, via dicendo, quello lì c'è. Ehi, il canale sopra va. Sopra, sotto, in mezzo, dove vuoi di qua? Poi c'è qua, ecco, è un buon apparato, lo sai. Quello è un ottimo apparato. Il tornado è il tornado? 4005. Il 2005 è un bel apparato, io non ce l'ho 50 euro, se fosse davanti a me me l'avrei preso io, adesso non ce l'ho disponibile perché devo fare altre cose, se no me l'avrei preso io. Chiedi, c'è la macchina del tornato 4S naturalmente, quindi è omologato soft, cioè davanti e dietro, non dentro no, quindi in pratica è mascherato, è un 4005 e l'altro 4S, capito? Gianni, vieni, quello è un bel apparato, quelle soldi che ci ho messo di parazione, che è tornato 4.500. sentiamo al limite, non lo so, domani o domani, quando capita. Buonanotte, buon tutto a tutti e due. Allora, è il tuo questo apparato, Antone? È il tuo? Sì, sì, è mio perché non è stato apparato, quindi ce l'ho 6 mesi, anzi 7, insomma, quindi ce l'ho io. Te lo faccio vendere io. Però se funzioni, Antone, non mi fa fare tutti i figuri, che se lo diamo e poi non funziona, te lo faccio vendere io. Però non 50, ne teniamo qualcosa in più, dai. Ascolta, a me non me ne frega niente, beh, basta che recupero 50 euro, me ne frega proprio nulla se lo prendi 100. Sono problemi tuoi, poi che non so poi di... Te lo sto dicendo, ma poi che funziona, loro ce ne stanno. Guarda, il suo ricettivo è perfetto, quindi, mentre solamente recuperare i soldi miei, non c'è stato nient'altro. E ce l'ho già 8-9 mesi, il telefono non mi risponde, quindi, quando uno ti risponde al telefono, ti tira il telefono di prima c'era una scusa, poi c'era l'altra, poi non ti risponde il telefono, cosa fai? Ma ce la faccio a spendere i soldi io prima e poi non recuperarli, a un certo punto... Faccio così, a fare il suo, cioè, mi telefono e dice, non ho già venduto, arrangiati, non è che era proprio niente. E che finale c'ha? 19-19 ci ha detto. Io sono girato, ho detto che ti ho il finale, aspetta. L'unica cosa che ho messo è un burattore, basta, era bucciato. Io ho messo lo sbite nuovo, che non c'era per niente, era attaccato, l'ho collegato. E quindi basta, ho cambiato altro. 50 euro di riparazione, insomma, figurati, voglio solo la riparazione, non voglio altro. Ma cavola, vediamo un po' se sto fatto lo vendere io, dai. Vabbè, c'è problema, che è qua la parecchia, è qua a casa. Se vuoi mi attacca adesso lo faccio sentire, aspetta 2 minuti e te la aggancio, va. Accolta. Provato, siamo in FM pure adesso, così, no, in AM, FM. Va bene, no, va bene. Se vuoi, se mi prende l'altezza, quindi va benissimo. Se va bene qui, va bene anche per gli altri, se no sono per io. Oh, questo va bene, su questa radio va bene. Va bene, che bene. Qua non capisco, quando arrivo mi dà il 44, e il 44 non so che cazzo di canale fa, il 43 e combacia tutto. 44 non si sa che canale fa, il 45 e si 44. 46 e si 45, 47 salta di questo cazzo di canale. Ma cosa cazzo sarà? Ah, non lo so. E non so per di tu perché la parecchia. A me risponde questo qua sul 10, la verità. Ce l'hai, però sei tranquillo. C'è un apparecchio serio, boh. Cosa vuoi per 50? Mi viene 50 euro che non ho nessun apparecchio del genere. A me, se lo metto su internet lo prendiamo al volo veloce. Anche 100, la verità, perché si va un sacco di soldi questo. Se pare che c'è paura, boh. Non è che non lo voglio inculato, io lo sai, prendere, ho avuto un po' di spesucce, ma fra una decina di giorni sì, lo potrei prendere anche, ma fra una decina di giorni però. E vabbè, aspetta un po' di giorni, io te ne do la parola adesso domani mattina, se è vero che rispondi di no, io te lo metto a parte e te lo agi tu, non c'è problema. Ciao, quanto mi devi dare a me di riparazione? A me di resto non mi serve proprio niente, non ne voglio di più di me, sono una persona tranquilla, non ne voglio, non ci voglio guadagnare niente dagli altri, quindi a me mi riparazione di riparazione è buco. L'apparecchio ti sto dicendo, quando mi dici questi vale 100 euro in commercio, non lo so. Vedi tu, mettiti i soldi da parte. Se lo vuoi dire, adesso io voglio andare a telefono a lui, se mi dice che lui non lo vuole più, io te lo sto dicendo. Io se lo dico, io sto andando a fare per sola, 50 euro per il soldo di riparazione, e basta. O lui, se ne ha voglia di comprare, se lo so comprare a te, se no se la piglia il culo. È positivo, comunque adesso mi sono spostato per appena ti ho centrato più perfettamente, non so come sono da te adesso. No, no, sei perfetto, non preoccuparti. È positivo, no, anche questo è un bel apparato, adesso questo ti dico che è un bel apparato veramente, mi piace veramente questo qua. Questo che ho adesso io, questo. Ma no, io non è che non è perché ne ho apparati, già lo sai che ne ho, c'è lo 2001 che c'ha tutto, c'è questo che c'ha più o meno tutto. Ne ho, non è che sto da parte perché ne ho di apparatini, a dire la verità, ne ho. Tu, sono io, ne ho apparecchi, dico a casa. Tu mai cosa me ne faccio di apparecchi quando non li uso? Non faccio proprio niente, tenerli così, ogni volta stacca uno, attacca l'altro, stacca uno, attacca l'altro, mi si girano i cosi, mi si girano la verità. Poi gli altri posso fare quello che vogliono, posso anche fare la raccolta di per dire 25, 30 apparecchi alla volta, tenerli così buttati in casa. Sono soldi spesi, la verità, se non è meglio fare la cosa, la donna, per 50 euro, guarda qui di perto, mi sfogo pure, la verità si dica, meglio le baracchine non c'è, sentire stronzate, non ce l'hanno. Guarda bene, ragazzi, al limite se non dovrebbe prenderlo, vediamo un po', dai, vediamo un po'. Capito, te lo faccio vedere, te lo prendo io, capito? Andrà bene, io mi vado a farmi un po' di nanna e domani mattina me la sto presto. E ok, va bene, c'è proprio. Ti adesso niente il telefono al padrone, non come entrare. E poi vediamo cosa mi dice, se mi dice che non ne frega proprio niente, te lo metto a parte, tu me lo ci restando. Se invece lo tiro lui, se la piglia il culo è pazienza, cosa vuol dire che io? È positivo, no, tanto non sto tranquillo, non mi interessa più di tanto, ma hai capito, comunque, va bene, dai, non ci sono problemi, non ci stanno problemi, andiamo bene, dai, ciao, basta solo il coso di saluto a, come si chiama, se no, a Gianni e chiudo. Sì, va bene, adesso che devo andare, se ho sonno, ho fatto giù in giro oggi, che sta per entrare, ci sentiamo, stai bene, buon tutto e alle prossime. E via, ciao. Ancora. Oh Gianni, se ci sei ancora sto chiudendo io, Vabbè, non c'è più nessuno qua. Ed ero lì che seguivo i dita, facevi, avevi messo la scuola. qualche cosa all'ESAF, poi quando praticamente l'ESAF l'hanno fatta fuori, sono passato Sinos, poi Sinos a Manoa, adesso in Manoa è entrata la multinazionale che è quella, praticamente io prima ero Privesa, prima di essere voi e Onera, eravate Endesa, quindi l'Endesa è la stessa multinazionale spagnola che adesso si chiama Acciona, Acciona Agua, quindi ti ho detto tutto. E come Acciona Agua al 40% dell'Enel, fate il conto, è uno dei più grossi a livello mondiale, questo lo sono io. Però prima si chiamava Privesa, quando a Fiume Santo c'era l'Endesa, quindi la stessa società, una gestiva luce e l'altra gestiva acqua, capito? Questa c'ha 35.000 dipendenti, ti ho detto tutto. Come è arrivata a prendere tutta la depurazione in Sardegna, perché ha partecipato a delle quote, quindi ha dei capitali regionali, è la convenzione regionale questa, nonostante sia una multinazionale. Ha comprato 150 macchine nuove al centro di Cagliari, nuove, completamente nuove. Infatti io avevo un Peugeot 1007 HD, 206 van, due posti, e me lo sono ritirato io. Me lo sono ritirato io perché era una bellissima macchina, non consuma niente, cammina come un demonio. E ho fermato quella di mia moglie, la sto usando lei. A me mi hanno dato il fiorino nuovo di pacca, tutte le macchine rosse, quindi vedi bene che anche io ho seguito un itinerario un pochino lungo, perciò quindi tu lavori in turno con Antonio quello di Itri. È affermativo. Grande radiomattore, ISDO Jigsaw. Un attimo con Antonio, proprio con lui. No, vabbè, lui non è in turno, io prima, lui è giornaliero. Anche io prima ero come lui giornaliero, poi decido di passare in turno. Va meglio, anche lui è lì, è sempre lì da noi, noi apriamo i lavori, vieni qua, ecco qua, quello fare questo, c'è da fare l'altro, lui arriva con le dita, c'è uno lì, ormai, ti porta, ti fa tutte le ore, che ha detto, ma devo andare, non vuoi via, capito, non vuoi via, qui c'è la fine del topo, e allora lui dovete la terra, la dita, eccetera, eccetera, quindi, per capirti, è diverso, lui è ancora lì, va bene così, e comunque lui è mio collega, anche lui per capirci, abbiamo fatto un giro da una parte all'altra, adesso con questa storia del nucleare che i tedeschi gli hanno dismesso, adesso sono incasinati, adesso forse rivendono il pacchetto Italia, quindi probabilmente ci rivendono, non si capisce se ci comprano i francesi oppure ci riprende l'Enel. Shut up. dormire anche domani, se non è dalle 5 qua, alle 5 già non può domani la settimana, non si scarica, vado domani in silenzio, la solita routine. Ehi, ehi, Daniele. Vabbè, a tutti tocca, io la mattina 6:30, sto uscendo, quindi mi devo alzare alle 6:15, farmi la doccia, prepararmi, devo fare anche la barba perché oggi ero talmente impegnato con questa, con queste cosettine che volevo fare qua in radio, preparazioni e balle varie, infatti tanto non devo uscire, barba la faccio domani mattina quando mi alzo, perciò. Vedi bene che, babù, va bene, a te Fabrizio, riprendi. Sì, ciao Daniele, ti saluto, se stai andando a Ninna, ti saluto. E invece ti dicevo, noi, meno male, da Collatori, noi avevamo molta paura da passare, sai, da una società di Stato a un privato, che poi era l'ex, anche loro erano pubblici un tempo, Endesa. Quando siamo passati invece con loro, noi siamo stati molto meglio, perché come dice, multinazionale questi chiedevano, ma bisognerebbe fare anche quello, ma bisogna essere plurifunzionali, ma dovresti seguire, vabbè, però davano, anzi noi non siamo andati a guadagnarci molto, capito, anche tre categorie in una volta si riusciva a prendere, a guadagnarci molto, non ci possiamo lamentare da quello lì. Poi sono arrivati altri colleghi che ancora sentiamo, perché poi abbiamo la stessa, come si chiama, il filter, lo chiamano, quello che ci rimborsa le spese mediche, no, è rimasto tutto invariato, e loro quando ci sentono invece sono incasinati veramente. Poi invece ci ha preso questa società, è arrivato l'amministratore delegato, ci ha fatto tanti di quei discorsi, avevamo una riunione, una decina, diciamo, ha fatto tanti di quei bei discorsi, poi invece alla fine la dimostrazione è stata pessima. Non abbiamo mai perso, né guadagnato niente con questa società, adesso non si sa se rimaniamo con questi, se cambiamo, speriamo almeno di mantenere quello che abbiamo acquisito e non perdere altro, capito? Almeno quello. Io te lo auguro, Fabri, io te lo auguro, è l'unico augurio che ti faccio, io faccio tantissimo. Ripeto, oggi stiamo tornando un po' alla normalità, nel senso che, diciamo, hanno capito che non ne valeva la pena far perdere tutta l'esperienza acquisita. Io sono entrato nel 96, perché prima facevo tutt'altra roba, e quindi far perdere, se senti rumore sto prendendo la scrivania. Quindi capisci che non conveniva a nessuno far perdere le cose agli altri, perciò alla fin fine si sono capite tante cose, però qui Ferrafa ci hanno messo un po' le strette, perché gli assistenti come me, i conduttori di impianto, abbiamo perso una barca di quattrini dal passaggio a Banoa multinazionale e così via, il secondo passaggio, il terzo passaggio. Allora, cosa vuoi fare? Così è, e così va bene. Poi le proposte di legge che la regione ha varato erano quelle di tagliare. Molti dei miei colleghi li hanno trasferiti, a me ci hanno provato un paio di volte a mandarmi in zone un po' più lontane, ma non sono potente, ma qualche conoscente ancora ce l'abbiamo, e quindi sono tornato alla base, adesso praticamente ho la stessa zona di quando sono entrato, però mi sono fatto Cagliari, mi sono fatto Oristano, mi sono fatto tutta la zona di Tiesi, capito? E quindi insomma i miei giretti me li sono fatti, adesso sono nuovamente in zona, sono spostato nella zona di Nurvi, Sedini, Burzi, La Erru e Mar. diciamo che sto bene. Ma ne ho fatto dei giri. Sì, ho capito. E no, da lui, ti ripeto, te l'ho detto, speriamo, quello che si spera che prima la politica era quella che si faceva tutto in casa, quindi c'era di tutto, no? Tutto si faceva da là alla Z. Adesso invece con le privatizzazioni, la manovalanza, vabbè, manovalanza non è che ce ne sia mai stata, però voglio dire anche tutte quelle categorie, tutti i professionali che sono tutti qualificati, tutti specialisti, tutti sono ormai non ci sono più, diciamo che ormai le categorie partono come mansioni da assistente in su, perché i lavori vengono fatti solo dalle ditte appaltatrici, escluso qualche reparto tipo dove ci sono logiche, reparti particolari, qualche operativo ancora c'è, perché che ne so, per chiamare e mettere mano su una logica magari prendono anche 100 euro a ora, capito? Quindi non gli conviene, però per il resto è tutto in appalto. Infatti quando la gente andava in pensione tutti quanti a seguire lavori, andava anche bene, però poi alla fine non so se è stata una cosa buona, perché alla fine l'occupazione, un conto avere un posto fisso lì tranquillo con quei contratti, un conto è di queste ditte che li vedi lì sbattuti tutto il giorno, che anche lavorando come delle bestie per 1200 euro al mese, capito? Quando li prendono, compreso di tutto, questo ormai è il mondo del lavoro, capito? È positivo. Daniele, ci sei ancora? Daniele? No, Daniele ha chiuso. Sì, ma no, non ci sono dubbi, o Fabri. Purtroppo è così. Però quando le cose vanno fatte in una certa maniera, va bene. Quando invece vanno fatte diversamente, allora tutti protestano, tutti fanno, capito? Però alla fine bisogna accettare quello che è. Purtroppo io ho 51 anni e non è che posso dire beh, andate tutti a fare in quel paese, da domani non ce l'avevo più. No, sarei un vero imbecille, perché il posto è pubblico e quindi mi sono creato la mia pensione, quindi devo aspettare e soffrire. Ma anche da noi, no, noi gestiamo tutto, la parte della depurazione, ho fatto anche potabilizzazione e c'erano le imprese, mentre la multinazionale fa conduzione e manutenzione, quindi gestisce tutto lì nel modo più assoluto. Adesso appunto che la regione ci deve dare come azienda 24 milioni di euro, ce ne ha dato la metà e quindi hanno messo un po' a posto le cose, però ne deve sempre prendere tanti e si va avanti lo stesso. I stipendi stanno facendo le cose, non le stanno facendo mancare, però se ci fosse un po' più di serietà da parte della regione avremmo lavorato molto più seriamente, però purtroppo questo non c'è e quindi niente. No, quando eravate in Desa scendevo spesso io lì, perché c'era una collaborazione con la Privessa, con l'altra multinazionale che adesso praticamente si chiama Ciò. No, poi è stato cambiato tutto, quindi non so esattamente cosa sia successo. Infatti ci avevano anche liquidato noi proprio. commissioni, un casino, per avere una categoria sembrava che avesse, e invece questi come sono arrivati visto proprio il privato, ascolta, voi vuoi fare quello, vuoi trasferirti il reparto, puoi fare quello, puoi fare quello e nessuno, ok, se fai quello, questo, praticamente al privato, se lo fai ci sono i soldi, questo è come ha lavorato, capito? Infatti hanno ottenuto molto, e ti ripeto, è vero, sì, si è lavorato di più, un po' come il privato, però almeno hanno dato. Ti ripeto, è arrivata questa società, sembrava tanto, invece qui alla fine, con tutti i casini che ha avuto questa storia nucleare, siamo proprio a livelli che, per carità, capito? Non ci sono più relazioni industriali con questa gente, non c'è più nessuna risposta, è rimasto tutto invariato, ti ripeto, speriamo che rimanga così, o sinché se decidono di vendere, che vendano, e ci riprende qualche società, che di cui si parla, o Enel, io non ci vorrei tornare come Enel, oppure questi francesi, vediamo. Torno al punto, speriamo di rimanere tutto invariato come siamo arrivati in questi 21 anni, perché io ancora ne ho da fare, ne avrò almeno altri 19-20 anni di lavoro. Cosello. No, io già me ne manca poco. 35 anni e poi ce la prendono tutti i nelli dietro. Va bene. Però vedi. Tutte le privatizzazioni, tutte queste cose, tutti i giri che hanno fatto, alla fine vince un concorso, a cosa serve? Tanto se ti devono spostare, ti spostano lo stesso. Non è un problema quello. Vabbè. Comunque, ultimo per la truppa, intanto, va bene così. Sì, sì, lo so, il lavoro che fa Antonio. Pensavo fosse un assistente, invece no, non è un assistente. Più o meno sì, praticamente ormai quello è il lavoro, anche inquadrato più o meno, sì, ma credo di sì, più o meno, ormai ormai sono gli operativi, non c'è più rimasto niente da noi, quelli che fanno gli operativi, cioè non c'è più nessuno, nel suo reparto, ma no, anche lui ormai non. No, segue l'ICA, no, ormai sono tutti, non c'è nessuno, ormai praticamente le categorie più basse sono assistenti, da tutte le parti, è quella, capito, in turno invece un altro tipo di cose vengono classificate, ma ormai grazie a Dio, certo, è così, infatti anche lui c'è sempre questa vita che fa questo tipo di lavoro, capito, logiche programmate, e quindi segue questi qua, anche lui ormai la parte operativa non esiste più da noi. E sempre Carenti lì che fa la manutenzione. Carenti chi? Come si chiama? Si chiamava prima Nuova Limpe, mi pare, non ricordo, una cosa del genere. Lui è sorsese, padrone. Forse ho capito, forse l'ho seguito anch'io. Cioè quando ero giornaliero, forse capito Nuova Limpe, e forse ho capito, facevano anche roba di vetroresina, questa roba qua. Soprattutto lavorano a vetroresina, sono anche molto bravi, non so adesso cosa stiamo facendo, stiamo facendo idraulica, capito? E poi vabbè, c'è l'officina turritana lì anche, che mi pare che sia lì alla manutenzione della, diciamo che faccio gestione, manutenzione delle valvole di alta pressione, non so, una cosa del genere, perché io sono stato anche con l'officina turrettana e quindi vabbè, io seguivo sempre la parte idrica, avevo anche la ginara, andavo anche la settimana per controllare i vasconi, il dissalatore eccetera. giorni, tutti i giorni, perché seguivo, ti ripeto, la parte idrica e quindi avevo trucco reale, solamente trucco reale, appunto, che è quello più importante per Sassari. Poi Monte Oro che manda l'acqua sia a Ponte Rosello che via Milano, e poi Montelva Prestigino, e poi c'era la corte, il Palmato e la Pedraia. E due volte alla settimana, martedì e venerdì, andavo a controllare il dissalatore della Ginara con il depuratore che c'è lì a Carolina. Capito? E stavo veramente bene. E lui, quando dovevamo fare le prove di carico delle pompe, con tutte le curve di carico eccetera, io l'unica persona che consultavo era sempre lui. Sempre lui, perché ti dava affidabilità, è molto preparato nella parte meccanica, è un bravissimo saldatore, è una persona veramente competente. Sì, lui soprattutto comunque come meccanica che come saldatore, perché io li ho seguiti saldatori carboniti, sta quella roba lì, radiografie, faccio, quindi noi ci facciamo le radiografie su tubazioni di caldaia e li ho seguiti, lui non è loro, lui soprattutto è bravo come lui fa pompe, tutta la parte di meccanica, aggiunti, accoppiamenti, riduttori, un po' di tutto, è molto bravo, è molto preparato. Poi io credo che infatti della sua vita lui è sempre lì e gli altri gli girano sempre intorno, capito? Ma lui è fisso, se la vita perde lui, perde tutto. No, sì. Non lo perde, non lo perde, è tranquillo. Mi sento parlare molto bene. Io ti ripeto, quando avevo necessità di qualche informazione tecnica riguardante proprio la parte meccanica delle pompe, perché noi mensilmente di controlli, soprattutto tutte le prevalenze delle pompe, cioè una pompa c'ha una prevalenza, una curva a carico, quindi devi sapere a che distanza può tirare e dare una prevalenza di salita per la pressione dell'acqua. E quindi quando volevo essere sicuro ci vedevamo in officina e lo aspettavo quando lui arrivava alle 4 e mezza, alle 5. Da Fiume Santo si faceva due chiacchiere e mi diceva, va, secondo me è così, così e così. Allora mi guardavo i manuali, effettivamente corrispondeva a quello che mi diceva lui, e quindi mi fidavo ciecamente, capito? Una persona molto preparata. Gli altri sono manovalacci, quindi insomma, che c'è lui che li girano intorno, sono bravini, ma non hanno niente a che fare con la sua preparazione. Sì, sì, il nome è così. Lui magari da quel lato lì un po' più restrittivo è lui, perché questo di pompe la roba lì l'ho fatto per tanti anni, l'ho seguito il lavoro, quindi per valenze, per fare il calcolo, il controcalcolo. Lui, da noi da quel lato lì c'è gente molto preparata, noi colleghi, ormai si chiede 30 anni che lavorano in impianto, quindi macchinari, tutti qualsiasi cosa che giri lì ormai li conoscono perfettamente, e lui ti ripete uno di quelli ora delle vite fa tutti questi tipi di lavoro, però non è che li lasciano da quel lato lì, sì, gli chiedono qualche consiglio, ci parlano, però chi lo segue, gente che meglio male dopo 20-30 anni che lavori lì, che fai quelle cose lì, ne sono abbastanza preparati, quindi da quella zona che vanno a chiedere consigli, però so che hanno piena fiducia, perché quando ci mette le mani lui fa senza nessun problema il lavoro al 90%-95% delle volte, non ci devi rimettere le mani. Ma non lo so perché, ti ripeto, avendo lavorato giù con loro, anche se effettivamente ci stavo poco, ci stavo poco perché io scendevo a rifornire, a portare i rapportini e poi basta, ero sempre in giro. Però certo. Ma no, è anche un bravo saldatore, Fabio. L'ho visto fare dei lavori, saldare delle ghiere proprio di una pompa, delle tenute di una pompa. Sa saldare veramente bene. Alla grande, vai tranquillo. Però lui è un... si occupa di meccanica. Lui è un grande meccanico. Va bene, va bene. Cambiamo totalmente discorso, se no sembra che stiamo sempre lavorando. E quindi adesso si è a riposo praticamente tre notti, adesso due giorni di riposo, come facevo io, e poi inizio nuovamente con la mattina. Sì, adesso faccio giovedì mattina, venerdì mattina, poi sabato mattina e domenica pomeriggio, sono due giorni di ferie, ho preso perché devo andare, c'ho una gara, io faccio il giudice l'ascolto, no? E quindi mi hanno invitato al centro della Sardegna, c'è una gara di affrettare, quindi devo andare a fare questa cosa qua, ma vado volentieri perché mi piace, non è che ho un lavoro, infatti ho preso due giorni di ferie. Poi lunedì mattina, in genere non facciamo mai, escluso questo giro di turni, il mio ciclico, capito, escluso questo giro di turni che faccio i tre mattini e due pomeriggi, poi massimo lavoro per quattro giorni consecutivi e poi si riposa, 3-4 giorni consecutivi e poi si riposa, capito? Quindi da noi giriamo a B, C, D, E, F, da noi giriamo a 6, capito? Mentre in quasi tutto l'altro posto si girano a 5 e qui a 6 vuol dire che sei turni e non quelle persone che sono all'interno del turno a 6 e quindi sono molto più leggeri come turni e molte più giornate così chiamate da disponibili, noi chiamiamo dove ti fai le ferie perché con il fatto che noi lavoriamo mi sembra 26 minuti di più al giorno, no? In confronto ai colleghi, a fine devi recuperare permessi e ti servono per andare in ferie, se no non riesci a fartene mai le ferie durante l'anno. Sì, sì, come lo io però facevo due mattine, poi due pomeriggi, due notti e tre giorni di riposo, due mattine, due pomeriggi, due notti e tre giorni di riposo, sempre così, e infatti facevo ore in più, come stai dicendo tu, facevo molte ore in più, e quindi avevo più permessi, anziché due o tre, al mese, e quindi così, poi sono uscito fuori dai turni, giornaliero, poi adesso il giornaliero praticamente no. Non ho più problemi, perché insomma il lavoro lo organizzo io, lo seguo io, lo faccio io, perciò voglio entrare alle 8, entro alle 8, voglio entrare alle 9, entro alle 8, alle 9, se voglio andare alle 6, vado alle 6, non ho finito, me ne vado, non devo dare conto a nessuno, capito? E quindi sono tornato un po' alla normalità, ecco. Ma prima era stressante quando montavi alle 2, dalle 2 alle 10 io ero a Perfugas e quindi partivi all'1, un quarto, l'una e mezza da casa, un caldo a morire, non ti baciava più, alla fine parlavi solo col cane, perché altre cose, stavi tassi al telefono, stavo sempre insomma in sala controllo e non passava più il tempo. Adesso è tornato un po' tutta la normalità, va bene. Ascolta Fabri, ho invertito praticamente, ho fatto un cambio qua di posizione di radio perché l'avvento era troppo vicino al microfono, la senti molto meno adesso rispetto al primo avvento, no? Quasi niente. Sì, la voce adesso non la sento praticamente quasi niente, io poco fa vi stavo ascoltando stasera a Grotte e la sentivo la mente, infatti stavi parlando di chiudere, di fare, adesso infatti non la sento, però era un po' fastidiosa stasera. No, adesso è inserita, però si sente molto meno, la sento molto meno anche io. Vediamo un po', la scena 2 in funzione, quella dell'alimentatore e quella della radio, però credo che si senta molto meno, no? Sì, no, va bene, non, a me praticamente non sento, va benissimo, non sento nessun problema, capito? Ehi, va bene. Sopra, a fianco al 440, il C80 l'ho messo sotto, a fianco al 140, così è anche più arieggiato e tutto, perché questo è un piano di quelli doppi, quindi c'è radio sotto e sopra dove non si toccano, però mi sembra che era troppo chiuso, ecco perché scaldava molto e la ventola si sentiva parecchio. Adesso si sente, ma molto meno sicuramente. No, adesso va bene, oggi la verità è un po' fastidiosa. Ascolta, io ho sentito ad Antonio poco fa, certo quando poi è sparito, so che domani forse deve passare, se riesco a sentirmi eccetera eccetera e non disturbo sempre, se non ti dispiace volevo fare quella prova. Non c'è nessun problema, Fabri, da parte mia non c'è nessun problema, chiamatemi prima, perché io ti ripeto, quando esco al lavoro so che devo andare via quell'ora, ma capita, come è capitato oggi, che mi ha chiamato Leoni che doveva mandare l'autospurgo a Nurvi e quindi sono dovuto tornare indietro per aprire il cancello, seguire il lavoro, e anche se ci ho messo un'oretta, però, e poi fare il buono, capito, firmarle il buon lavoro. Perciò possono capitare queste cose, non vorrei magari farvi aspettare eccetera, chiamatemi prima così magari ci diamo un orario, non c'è nessun problema. Ma vuoi praticamente usarlo qui e fartelo sentire a te o cosa vuoi fare? No, non ho capito, vuoi vedere se funziona? Bravo, me l'hai detto. No, magari è proprio solo attaccare un attimino e vedere se funziona. L'ho sballato, l'ho piazzato dal microfono con le due fesserie e lo voglio solamente provare per vedere se funziona, perché io aspettando Vittorio magari me lo dà fra 20 giorni, un mese, due mesi, che ne so, quando me lo dà con l'apparecchio, e magari quel microfono rimane fermo, magari quello piazza un problema, è meglio che me ne accorga subito, tu dici non ho problemi, non ne danno, non si sa mai, capito? Così se dovesse non ha problemi, è nuovo, però se ha problemi di una telefonata glielo rispedisco indietro, quindi chiamarlo fra 20 giorni e dirgli non l'ho provato, quello dice sì, vabbè, è in garanzia, portalo, però non te lo sostituiscono. Beh certo, un'altra cosa ti ripeto, come ti ho detto stasera, non cambiare connessioni, togli le batterie da dentro, perché si possono ossidare e creare problemi al circuito di alimentazione, di amplificazione. E niente, lo proviamo qua, ti metti le cuffie, te lo faccio sentire e tu te lo riporti via, non è un problema quello. Qui siamo sicuri che è a posto, ma guarda, io ne avevo uno comprato nuovo dentro la scatola, ho lasciato un anno e mezzo dentro la scatola, sono andato a prenderlo perché mi serviva, che in pratica è quello che sto usando adesso Antonio, funzionano perfettamente, no? Non sono dei microfonini che prendono così, capito? Sono dei microfoni seri, abbastanza robusti, c'è qualcuno che ogni tanto va a comprimere sul piantone in plastica che mantiene il cono del microfono, lo spinge troppo in dentro e lo spacca, quindi hanno una misura, quindi più di metà non devi portarlo dentro, altrimenti si spacca, infatti questo imbecille ha spaccato il cono che mantiene il microfono, adesso io l'ho tutto ripreso, saldato dall'interno e sto lasciando ancora il vulcanizzante esterno per fare ben presa, siamo più sicuri che però il microfono è già dentro la sua sede, sta funzionando, come vedi è sempre questo qua. Infatti sto usando questo di Antonio proprio per vedere se c'è qualche problema qui e là, però problemi non me ne sta dando, quindi penso che sia tutto regolare, dai. Siccome c'è il down air ci vediamo, dai. Buon lavoro e buonanotte, alle prossime. Ciao Fabri, un saluto anche al cuore e alla famiglia, ci sentiamo domani. Allora metti d'accordo con Antonio e da parte mia non ci stanno problemi. Ok, buonanotte. Già. Come andate? Tu sei quello chiamato la volpe, quindi le volpi escono di notte, capito? Perché hanno bisogno di beccare le galline, di mangiare gli agnelli, però sappi che c'è sempre qualcuno che lavora, quindi tieni duro, non aggiungo altro e ci sentiamo domani. Buonanotte. Io tengo sempre duro, non ti preoccupare, assolutamente. E comunque stai con gli amici, non andare, stai a una, a parte che è presto, aspetta a vedere che ore sono. Sono mezzanotte e meno un quarto, stai un altro quarto d'ora e poi andiamo tutti andando, no? Che palline che sì. Guarda, continuavo ancora a lavorare su quelle poche cose che mi sono rimaste da fare. Ho spostato ancora un po' di roba, ho invertito, ho fatto, come diceva Fabrizio, perché così non senti le ventole, così non senti niente. Ok, quindi la ventola funziona adesso, meglio di prima o peggio di prima. E poi rimani e lui sparisce. Sono negativo, scusami un attimino, aspetta. È stato questo un campare, capito? Ma cosa che prende il cuore, guarda, prende il cuore. Se l'avessi spento quel telefono ad una certa ora, forse rimanevi più sereno. È sempre un telefono, Fabio, è sempre un telefono. Pare un migliore presidente della Repubblica. Anche io già uso il telefono, ma a una certa ora lo spengo, non voglio così inferire nessuno, né amici né niente. Chi veramente mi deve cercare sul telefono a casa e mi chiama a casa, che quel numero non c'è nella guida e ce l'hanno veramente i familiari, quelle poche persone, nemmeno al lavoro ce l'hanno, capito? Spengo il telefonino e quindi sono praticamente irritracciabile. Anche io ho fatto la stessa cosa. Telefono in casa c'erano i miei familiari, qualche amico, qualche cimiserio. E basta, nella guida l'ho fatto togliere già dall'anno scorso, ma come sono arrivato qua, e così non esiste da nessuna parte. Se lo voglio dare lo io, diversamente rimane muto il telefono, infatti poca gente mi chiama, poca gente, proprio quelli che hanno il telefono di casa mi chiama, Luca, Giampaolo, Prodottore, se altri, qualche altro CB, ma veramente pochissima gente. Il mio telefono è già spento dalle 11 ore, non me ne frega assolutamente niente. Allora Grobe, dici qualcosa forte. Perdonatemi un attimo, davvero ho due piccoli problemi che sto risolvendo in un secondo. Allora, i tuoi secondi diventano ore, quindi è mezzanotte meno 5, se è mezzanotte 5 non riprendi, io spengo la radio e me ne sto andando. Avanti Fabri. Due piccoli problemi, forse lo sono due problemi. No, ma lui quando dice risolve in un minuto, vuol dire ci vuole almeno mezz'ora. E quindi niente, va bene. Ma l'hai sentito Vittorio, ti ha detto qualcosa, questa radio sta andando a buon fine, insomma. Io non ho capito esattamente qual era il problema di quella radio, ma sicuramente potevo risolverlo anche io in pochissimo tempo, non lo so, secondo me. Che cosa era, se non ci sono componenti da cambiare, cose molto, molto importanti, che ci vogliano strumenti particolari, no, non mi perdo con quelle radio io. Perdonatemi, ho ripreso, purtroppo io ho questo brutto vizio di risolvere i problemi degli altri e di mettermene parecchi. Questo è anche un motivo per il quale arrivo tardi agli appuntamenti. Ho tutta una serie di altre problematiche, capito? Una di queste è quando le amiche non sanno a chi rivolgersi perché gli si è rotto il tubo dell'acqua di non so che cosa, telefono al Grobbe. Sì, ma tu oggi allora riprendo, mi hai dato un consiglio? consiglio, che io ho accettato molto volentieri. Allora te ne do un altro io di consiglio. Da dopo cena in poi spegni sto cacchio di telefono, ma spegnilo, buttalo da parte, lo riaccendi la mattina, ti controlli i messaggi, ti controlli la gente che ti ha chiamato e pian pianino te li sistemi. Non puoi stare cazzo fino a mezzanotte sempre attaccato al telefono, ok? C'hai ragione anche tu, e c'hai ragione anche tu. E comunque, stavamo dicendo. Vabbè, cosa stavi dicendo? Sì, è quello che stavo dicendo della radio, che allora gli effetti dovrebbero essere due, e uno sono un po' così. Uno in effetti ogni tanto sparica quasi tutto, una specie di granchiolino, ma quello è proprio un problema di WFO, l'avevo già letto da qualche parte, c'è quella colla, no, che c'è dentro, che poi diventa conduttiva e quindi va pulita e non vengono per lontano, ci vuole giusto un po' di pazienza e un po' di lavoro. E poi l'altro dovrebbe essere il prefinale, che è i prefinali, dai, con un kit, mi ha detto, col diodo eccetera eccetera, che va sostituito, anche se l'altro giorno lo stavo provando e lo sentite, stavo uscendo anche egregiamente quell'apparecchio. Lo dice che non gli dà più di 10 watt, io mi ricordo che me ne dava 70-80, arrivava da quello strumento, però non so, sta controllando. A me quello che mi interessa è che mi dica: Fabrizio, questo è l'apparecchio, adesso è a posto. L'unica cosa che mi interessa, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, non me ne può fregare niente di più, guarda che me lo dia e basta. Ho capito, beh, se c'è da sostituire il prefinale ce la fai tutto l'allineamento, quindi è giusto che, ma se era solo il pomello del WFO che ha perso la sua stabilità, no, non ci sono problemi. Io di tanto in tanto li tolgo i pomelli, li lubrifico, soprattutto le ghiere di riduzione di velocità eccetera, sono cose di routine, non c'è problema. Ok, Grode, quindi la ventola la senti ancora o non la senti più? Negativo, adesso sento solamente la mia, che è qua del mio switching, dell'alimentatore. Fra l'altro ne stavo ordinando un altro stasera e ho provato da Tecnocomunicazioni, però mi sembra poco serio che Neurit ti faccia vendere, cioè ti faccia comprare online attraverso una postazione di un privato. È abbastanza anomala la cosa, quindi ho desistito perché non mi è piaciuto molto il fatto che dovessi comunque depositare sulla tessera, cioè mandamela attraverso, come si dice, pagamento alla consegna, si dice? Si dice, io con Tecnocomunicazioni sono delle persone abbastanza serie, lo dico perché ho preso un sacco di roba, sono persone serie. Quando io ho ordinato qualcosa non ho mandato il contrassegno, se poi non fosse così il contrassegno, hai detto bene, c'è una PostePay da ricaricare, è la PostePay del socio, del titolare, qual è il problema? Qual è il problema? Tu carichi la PostePay del socio, del titolare, evidentemente lo fanno per questioni finanziarie, per questioni non lo so di che cosa, è una persona seria. Era esclusivamente il termine contrassegno che non mi somveniva. Fatto sta che ti chiedono 13 euro col contrassegno, non riesco a capire perché. Comunque, quindi già stavo prendendo un 35, anzi un 32 ampere della Proxel, costa 69, più 12 sarebbero 82 circa. Ci può stare, cioè ci può stare, però chissà perché, forse Marcucci ha qualcosa di meglio. Non lo so, molto più cara Marcucci. Allora io ho preso lo stesso alimentatore che hai preso tu, non lo vedi perché dall'altra parte sopra la base che c'è sotto la scrivania, che alimenta esclusivamente l'FT950, ed è della Proxel, l'ho pagato 59 euro più 10 di spedizione, 69 euro, sempre lì da loro, la Tecnocomunicazioni. insieme al microfono la M508. Aspetta però, ma tu hai preso quello con la regolazione del voltaggio o è solamente con a voltaggio fisso 32 A? Perché c'è quella 59 che ha queste peculiarità. Non mi interessa una regola del voltaggio. Io una volta che è arrivato ho puntato il tester, i puntali del tester, all'interno c'è un trimmer piccolissimo sulla, proprio sulla scheda, l'ho portato a 13,8, l'ho lasciato così, ed è sempre a 13,8, fisso, ogni tanto lo controllo col tester. Non mi interessa stare regolando, facendo, non ha strumento, non me ne frega niente, per intanto l'effettivo 150 c'ha tutto, c'ha il display a 4 comandi dove ti dà grossmetro, wattmetro, potenza, quando schiacci la portante, poi pigi il meter e ti dà i volts dell'alimentazione, quindi quello che lui sta prendendo dall'alimentatore. Ti dà gli ampere quando tu stai schiacciando la portante, ti dà la parte del compressore, ti dà la parte dell'LC, ti dà tutto, quindi mi sono fidato per quello, capito, altrimenti l'avrei preso diversamente. Che modello è questo, mi ha detto? Tecnocomunicazione. Tecnocomunicazione. Le Proxel da 59 euro, quello da 30 ampere, senza strumento, senza niente. Ho capito, quindi ne vale la pena di quello, prendere quello. Tu usa di rivare dello strumento, regolazione, ballerina, cosa puoi fare? Sono tutte cose in più, non puoi fare assolutamente niente. Quando un alimentatore tu gli attacchi la spina, prima di accendere la radio ti prendi i puntali del tessere, rosso con rosso, nero con nero, lo metti in volts, ti fai il carico praticamente, vedi quanto è in uscita, se dovesse essere basso a 12,8, 13, ti ripeto, tutti gli alimentatori switching nella scheda hanno la regolazione interna, quelli che non ce l'hanno esterna, tutti. Lo apri, c'è un trimerino sulla parte proprio appena tu apri bianco, un trimerino bianco appena tu apri il coperchio dell'alimentatore sulla scheda davanti, quello lo metti che c'è il vite induttivo, te lo regoli a 13,8, richiudi e lui è a posto. Guarda che sono dei buonissimi alimentatori. Allora lo prenderò domani mattina. No, perché ce n'era anche uno per 20 euro in più che aveva anche la spina, aveva più prese di alimentazione e anche una presa per l'accin di sigari, che poi non è per l'accin di sigari, però se è qualcosa che prevede quello. Riprendi Fabrizio. Ho capito, anche io uno di quelli che funziona egregiamente, capito, ormai con questa tecnologia che già switch costano cosa vuole, ormai che mi sono pagato così per il mio, c'ha il volumetro, tutto in uno strumento, poi c'ha l'amperometro, e puoi mettere 13,8 fisso col tastino, va direttamente a 13,8, oppure puoi fare la regolazione del watt, poi c'ha il filtro che praticamente sposta la frequenza di lavoro per non interferire col ricevitore, ma costava così, se guardi su me lo trovi a quel prezzo. E dall'alimentatore mi sembra che ho pagato 59 o 69, capito? Forse era per proxy lo stesso, insomma, basta che guarda il tuo veicolo. Sì, Proxel senza strumento è 59 euro, con lo strumento pare che sia 69 più 10 trasporto, sono 89, una cosa del genere, però diciamo per l'uso che devo fare io per alimentare una radio sola, sapendo che poi tutta la radio mi dà tutto il sistema digitale, poi quando viene te la faccio vedere, dove mi dà appunto anche il carico dell'alimentazione, le ampere e tutto, perché ci devo buttare 10 euro in più? Non è quello il problema, perché ci devo buttare? Non mi serve effettivamente. saluto perché è tardi, dai, è tardi, è mezzanotte 10, mi posso trattenere sino a domani, però sono stanco, bisogna andare a nanna. Quindi ciao Antonio, ciao Fabrizio, eventuali SWL all'ascolto, un saluto a tutti, ci aggiorniamo domani, mettetevi d'accordo voi, ti ripeto, chiamatemi prima perché se ho degli impegni particolari al lavoro che mi devo trattenere, così poi vi do l'orario di quando sono a casa, insomma, ok? Ok, ciao, buonanotte, buon ciabacco, poi mette d'accordo con Antonio. Ciao di Roger, mi hai sentito, mi hai ascoltato, buon 144, ci sentiamo domani. Fabri, io ne approfitto perché davvero sono distrutto, tra l'altro ci sono due gatti qua che stanno rompendo le balle, adesso gli devono passare i cuscini che la metà basta. Se a te va bene, non so, dammi tu un orario. Io non ho problemi domani, tanto se parla domani pomeriggio, primo, secondo, come va bene a Claudio, mettiti d'accordo tu, mettiti d'accordo, poi mi mandi un messaggio e mi dici che ne so, a quest'ora qua fatti trovare qua, io vi faccio trovare, io spacco il minuto, Benissimo, perché anche io sono così. Non mi pare, a quanto sentite, ho visto, mi sembra che sei un po' così. Fabri, se vuoi un consiglio, dagli un orario antecedente a quello che ti dice lui, No, noi gli do orario, che ne so, un quarto, cinque, un quarto, sei, un quarto, qualsiasi ora, io a quell'ora, io arrivo sempre lui 2-3 minuti prima, aspetto 2-3 minuti, poi prendo la macchina e salgo. Mi ho detto, ma tu non stai andando in QRT, in QRC, in QRD, vai dove stai andando, che mi metto d'accordo io. Sì, va bene. Va bene, mettiti d'accordo tu, poi con Fabrizio già mi metto d'accordo io, non ti preoccupare. Dai, ciao a tutti, buonanotte, sappi che io amico buonanotte, rimango almeno un quarto d'ora, 20 minuti sempre all'ascolto, perché non si sa mai che qui mi rondano le orecchie e tocca alzarmi dal letto. Cosa ha passato adesso? Un quarto d'ora ha passato. Altri 10 minuti per la lettera. Che rompi. Fabri, allora ci aggiorniamo domani pomeriggio, se ti va prendiamo anche un caffè insieme e poi decidiamo un orario, non lo so, dai. Comunque ci aggiorniamo domani. Buon 144 quando lo farai, buon QRT se lo stai facendo adesso, io purtroppo mi devo ritirare nelle mie stanze. Sì, credo che facciamo questa roba che c'ho qua. Adesso mi appoggio il microfono, spengo tutto e mi guardo un po' di TV, un po' di TV, vediamo un pochettino, poi quando mi viene il sonno mi colpo. Vabbè, ascolta, fatti sentire domani, mandami un messaggino, fammi uno squillo, ti richiamo, cioè quello che vuoi da qui, mandami un messaggio, quello che vuoi, poi ci attacchiamo e ci mettiamo d'accordo, passo a prenderti al limite, ci beviamo un caffè e poi saliamo a trovare Claudio. Ok, ciao. Ciao. Fabri, portati il termos per il caffè, buonanotte. A giocare, vai. Monica. Sì. Ecco, fratello. Non siamo qua per pettinare i coccodrilli. Per pettinare il mammolo. Ma tu lo sai cosa sta facendo lui? Anzi, cosa le sta facendo fare? Cosa le stanno facendo fare? Stanno facendo pettinare i gatti prima di metterli a letto, capito? Non è che lui dica le prendo a calci, no, le deve pettinare. Può essere. Cioè, lui è molto amante degli animali, dice sempre così, invece sai quanti animali conosci, di cui uno sono io, vero?